Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Claudio Puglisi dello Scrittoio per presentare il Trieste Film Festival in tour in streaming da lunedì 20 dicembre 2021. Ben trovato. Ben trovati a voi. Ci racconti? Finalmente Trieste Film Festival in tour. Finalmente lo dico perché è un'iniziativa a cui siamo molto legati, a cui collaboriamo da diversi anni con il Festival di Trieste, che abitualmente prende il via all'inizio della primavera, dopo la conclusione del Festival di Trieste, che annualmente da 32 anni, quest'anno il prossimo sarà il 33esimo, si tiene a gennaio. Facciamo una selezione di titoli come Scrittoio che qualitativamente e da un punto di vista di audience ci sembrano interessanti, quindi non abbiamo solo occhio al film da festival, ma cerchiamo di tenere in valutazione sempre quello che potrebbe essere l'approccio del pubblico verso questi film. Quindi dicevo, si tiene solitamente in primavera in forma sia fisica, quindi in sala, sia online, in streaming, appoggiandosi sempre alla piattaforma My Movies, dove noi abbiamo all'interno il nostro canale Trieste Film Festival in Tour. Quest'anno, per i mille motivi che tutti possiamo immaginare, la parte fisica non si è potuta svolgere, ci sarebbe stata solo una brevissima finestra, ma di eccessivo affollamento cinematografico di uscite, quindi eccoci ad anticipare i primi titoli, che sono quelli del 2021. Primi titoli, lo dico perché a questi si affiancheranno poi dal febbraio 2022 i titoli provenienti dalla prossima edizione del Trieste Film Festival, andando così a completare quella che noi chiamiamo edizione anomala, quindi un'edizione biennale 2021-2022. Per il momento i titoli sono 4, ma a questi se ne affiancheranno almeno altrettanti, ci auguriamo anche qualcosina in più per il 2022, andando quindi a rendere un'edizione ancora più ricca. Ne parliamo di questi 4? Intanto, eccezionalmente, rispetto agli anni precedenti, per adesso abbiamo 4 film di finzione, solo film di finzione, non si è abbinato al momento nessun documentario. Abbiamo un film polacco, di una regista polacca, di Anna Jadowska, Wild Roses, che viene direttamente da una sezione che Trieste aveva dedicato alle registe europee lo scorso anno, che aveva vinto a suo tempo il Festival di Cottbus, non è mai uscito in Italia, è inedito in Italia. A questo si affianca un altro film in parte polacco e irlandese, I Never Cry, di Piotr Domalewski. Non mi chiedete di pronunciare i titoli nelle lingue originali, perché vorrei evitare di storpiare tutto. Storia di una adolescente che cerca di riunire la propria famiglia. Un film di nazionalità kosovara, spagnola, italiana e macedone, Andromeda Galaxy, che era stato presentato in anteprima al Festival di Sarajevo, ed è una storia di grande risvolto sociale che tratta temi di estrema attualità, soprattutto in quell'area del mondo, quindi dalla corruzione alla disoccupazione e come questo si riflette nella vita, nel quotidiano, nel rapporto tra padre e figlia. E un film bulgaro, il cui titolo tradotto in inglese è Fear, di Ivan Ristov, che ha conseguito il Golden Globe come miglior film di finzione bulgaro ed è candidato per il proprio paese come miglior film straniero agli Oscar. È un film molto interessante che tratta temi sociali, però lavorando, come spesso il cinema dell'Est Europa riesce a fare, anche sull'ironia, sul grottesco, ed è un film che una piccola apparizione in Italia l'ha fatta in sala, perché era stata fatta un'iniziativa a sfondo sociale nel quale era stato presentato, e anche quel piccolo test ci ha fatto capire che questo film sicuramente ha tutte le carte in regola per essere molto gradito. Per tutte le informazioni ci dai riferimenti web? I film sono visibili chiaramente sulla piattaforma My Movies One al menu Trieste Film Festival in Tour. Si possono trovare delle informazioni sui singoli titoli anche sul sito dello scrittoio, quindi www.scrittoio.net, sezione Trieste Film Festival in Tour, anzi in quella parte di sito è possibile vedere anche come si è sviluppato nelle edizioni precedenti Trieste Film Festival e attraverso i canali social del Festival di Trieste, dello scrittorio ovviamente, e attraverso la comunicazione di My Movies. Cerchiamo di tenere viva questa comunicazione per tutto il mese fino all'inizio del Festival di Trieste il 21 di gennaio con una nuova edizione. Trieste Film Festival in Tour, in streaming dal lunedì 20 dicembre 2021. Saluto e un ringraziamento a Claudio Puglisi dello scrittorio. A presto! Grazie, grazie a tutti voi, grazie Federico. Con Lucrezia Lobianco, regista del documentario L'Irpinia che resiste su Rai Play. Lucrezia, ben trovata. Ciao Federico, ben trovato. È sempre un piacere incontrarvi. Che racconto è questo? Intanto ti dico che Di là dal fiume tra gli alberi di per sé è una serie che prevede incontri, quindi noi ci spostiamo su un territorio e incontriamo delle persone. L'incontro con queste persone non è il pretesto per parlare del territorio, è il contrario, il territorio è un pretesto per parlare delle persone, che in automatico poi le due cose si compensano, insomma, quando tu racconti la gente di un territorio racconti anche il territorio. Quando io vado in giro per fare questi documentari cerco sempre di alleggerire lo stigma che racconta una zona, quindi che ne so, vado in Barbagia, perché in Barbagia tutti dicono ah vai e parte dei sequestri, e tu dici vabbè, ci sarà qualcosa d'altro oltre sequestri, insomma. E così sono partita per vari posti, insomma, per raccontare l'altro. In Irpinia naturalmente sono andata perché, Federico, come tu sai, insomma, l'Irpinia per i quattro quinti dell'Italia praticamente non esisteva prima del terremoto del 1980. La gente non sapeva neanche dove fosse l'Irpinia. Perché? Perché l'Irpinia è un'area interna e come area interna era abbastanza dimenticata, perché fondamentalmente l'Irpinia per molti rappresenta la strada che ti porta in Puglia, no? Al mare, a fare le vacanze, però di per sé era poco conosciuta. E quindi poi mi sono resa conto che appunto quando io ho detto ma penso di andare in Irpinia, tutti mi dicono vabbè parli del terremoto, e ho detto beh sì parlerò del terremoto ma poi parlerò anche d'altro, perché insomma, nel frattempo sono passate 40 anni, da questo terremoto qualcosa sarà successo. Che ti devo dire Federico? In realtà non è stato tanto possibile, nel senso che in Irpinia per tutta una serie di motivi, legati innanzitutto al fatto che non c'è mai stato un vero cambio di amministrazione, cioè c'è stata l'amministrazione di centrodestra che c'era già prima del terremoto e ce la portiamo ancora adesso, e questo significa che se tu non dai un taglio in qualche modo, che non c'è mai un punto di rottura, le cose non cambiano. E infatti l'Irpinia purtroppo è considerata dagli irpini stessi il posto dove c'è stato il terremoto e dove questo lutto non è mai stato elaborato. Vuol dire che la gente grande che se lo ricorda ti parla del terremoto, ma ti parla del terremoto anche i figli del terremoto e le generazioni successive. È proprio come se ci fosse stato un lutto in famiglia che non si riesce a elaborare fino in fondo. C'è da dire che a questo si aggiungono una serie di danni che il terremoto ha lasciato, di ricostruzioni non avvenute, di soldi scomparsi, di mille problemi. L'Irpinia poi, appunto, come ti dicevo prima, soffre il male delle aree interne in qualche maniera, no? Di spopolamento che il terremoto ha soltanto aumentato, ma che già era in essere, no? La gente comunque dall'Irpinia se ne andava a cercare situazioni migliori. Però, perché c'è sempre un però, e il però è bello, negli ultimi anni si sta tentando un recupero delle aree interne e quindi ci sono tutta una serie di persone resistenti che hanno deciso di rimanere pur nella complessità del luogo, hanno deciso di fare delle cose, sono in qualche modo un po' visionari, no? Cioè stanno cercando di immaginarsi l'Irpinia che vorrebbero e veramente tra mille difficoltà portano avanti un'idea di ricostruzione, di ripopolazione, si fanno forza e vanno avanti con mille idee, nel tentativo comunque di coinvolgere persone che hanno difficoltà a muoversi per conto loro, che però hanno deciso di rimanere perché magari non hanno neanche la possibilità di andarsene, insomma. Quindi ci sono veramente delle persone resistenti e che fanno la differenza e io me ne sono andata a cercare. Ci sono anche delle situazioni, poi anche questo però è molto comune nelle aree interne, ci sono tutta una serie di situazioni, diciamo così, al limite, no? Quindi tanti artisti, tante persone in qualche modo un po' speciali, no? Che sono rimaste nella zona e racconto anche loro, insomma. Visionarie in un altro modo, ecco, legate molto alla terra, alle loro tradizioni. Tieni anche conto che il sud in generale riserva un sacco di sorprese a cui non siamo abituati, no? È una terra dove si sta molto all'esterno magari, e quindi incontri persone che non avresti incontrato da altre parti. È stato veramente un bel viaggio, forse da certi punti di vista un po' più amaro e un po' più complesso rispetto ad altri posti dove sono andata, perché l'Irpinia è comunque una terra complessa. Quante persone hai incontrato, quante sono finite poi nel documentario, e il documentario che formato ha, che durata ha? Il documentario è sui 55 minuti, questo è il format della nostra trasmissione. Quante persone ho incontrato? Forse un po' una quindicina. Credo aver messo quasi tutti quelli che avevo intervistato. Diciamo che è saltato De Mita, che avevo fatto un'intervista telefonica, che però in realtà non mi ha raccontato quello che avrei voluto che mi raccontasse, però ci sentivamo anche male. Era una pre-intervista, insomma, che poi alla fine ho rinunciato. Avrei voluto intervistare Capostella, ma non ci sono riuscita, perché quei giorni c'era il Salone del Libro quando sono andata e lui era uscita con il nuovo libro. Una persona non ho inserito nel documentario, questa è stata una storia buffa, perché io sono andata per intervistare lui, che aveva una storia interessante, ma poi per caso ho intervistato sua mamma e la sua mamma aveva una storia ancora più interessante e quindi gli ho chiesto se poteva cedere il passo alla sua mamma, perché era stato veramente un incontro speciale, l'ultima persona che compare nel documentario, e insomma meritava assolutamente che io le dedicassi non solo una parte del lavoro, ma anche una parte un po' speciale. Il documentario è andato in onda su Rai 5 domenica 19 dicembre 2021, ora è su Rai Play. C'è uno spazio. Ci sarà uno spazio su Rai 3? C'è anche qualche altro spazio web dove c'è una scheda e anche materiali aggiuntivi per saperne di più? Ci sono stati degli articoli, è scritto al mattino, sono uscite delle cose su Spinia News, lo trovate su Facebook. Il documentario L'Irpinia che resiste su Rai Play. Un saluto e un ringraziamento alla regista Lucrezia Lobianco. A presto! Grazie. Ciao Federico, grazie ancora. Un abbraccio a tutti. Ciao ciao. Con Barbara Goretti di Cinecittà si mostra per presentare la quarta edizione di Animazioni d'autore, speciale Emanuele Luzzati nel centenario della nascita. A Roma, a Cinecittà si mostra dal 27 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Ben trovata. Buonasera Federico, ben trovato. Ce ne parli? Animazioni d'autore è la rassegna che annualmente Cinecittà si mostra dedica al mondo dell'animazione, e quest'anno, saltando lo sfortunato anno Covid, siamo arrivati alla quarta proposta e quest'anno per la prima volta la dedichiamo a due importanti protagonisti che sono Giannini e Luzzati, dopo aver negli anni passati ampliato lo sguardo sia sull'animazione nazionale, storica e contemporanea, che su quella internazionale. Quest'anno però, con la fine del centenario che celebra la nascita di Emanuele Luzzati, abbiamo pensato proprio di dedicare un'intera rassegna a questo straordinario protagonista del cinema d'animazione, del teatro e dell'illustrazione, un artista a tutto tondo che insieme a Giulio Giannini ha realizzato davvero dei grandi capolavori. Com'è nel dettaglio? Come ti racconterà? Quest'anno proponiamo una versione ancora più ricca, perché dal 27 dicembre al 9 gennaio ci saranno una serie di proiezioni calendarizzate che permetteranno al pubblico di vedere sul grande schermo i grandi capolavori di Giannini Luzzati, quindi il Flauto Magico, l'omaggio a Rossini con la famosa Gazzaladra, Pulcinella. Ricordiamo capolavori che furono anche candidati agli Oscar e che ricevettero poi innumerevoli premi, quindi un'occasione molto importante per gli amanti dell'animazione. Ma soprattutto offriremo fino a fine febbraio anche una mostra curata da Alida Cappellini, Giovanni Licheri, Lucia Nigri e da Carla Rezza Giannini, dedicata proprio a Emanuele Luzzati e Giulio Giannini. Un allestimento con il quale noi inauguriamo anche un nuovo spazio laboratoriale, perché Cinecittà si mostra un'attività didattica molto importante sia numericamente che a livello di offerta formativa per tutti i tipi di pubblici, scuole ma anche famiglie, e infatti questa rassegna sarà poi corredata dal 27 dicembre al 9 gennaio da una serie di laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni in degli spazi molto belli che quest'anno appunto raddoppiano, e abbiamo pensato, proprio perché questa mostra mostra, che era già stata la Casa del Cinema, celebrava Emanuele Luzzatti e Giulio Giannini, di riproporla qui, e questo arricchisce sicuramente l'offerta. Inoltre avremo la possibilità di proiettare all'interno della mostra il documentario di Matteo Valente, L'Ele e il magico mondo di Emanuele Luzzatti, che è uno straordinario documento rispetto a Luzzatti attraverso il conoscere questo grande artista, e la mostra sarà appunto disponibile fino al 28 febbraio 2022, quindi andremo oltre la data della rassegna che termina invece il 9. Grazie all'allestimento di questo omaggio, cosa hai avuto modo di apprezzare del lavoro di Luzzatti? Beh, innanzitutto la grandissima attualità dei suoi disegni, dei suoi lavori, e in questo anche la potenza dell'unione tra Giannini e Luzzatti. Ricordiamoci che è appunto Luzzatti viene da una formazione artistica di scenografo teatrale che sviluppa questi colori e questi tratti incredibili da cui genera delle atmosfere fiabesche veramente suggestive senza tempo, e che assieme a Giannini, che ricordiamo si forma prima come direttore della fotografia oltre che poi dopo come regista, riescono a sviluppare insieme delle pellicole veramente originali, alcune delle quali come ad esempio L'omaggio a Rossini con La gazza ladra, ma anche L'uccello di fuoco, nascono proprio sulla musica addirittura, quindi un rapporto strettissimo anche con le altre arti. E poi credo che questa esposizione assieme alla rassegna, che ricordiamo è poi la cosa più importante, perché lì dove si vede l'opera filmica, quindi il lavoro completo di Giannini e Luzzatti, dà modo di comprendere che l'animazione ha un linguaggio davvero universale, quindi che sì, noi la presentiamo in questo contesto anche un po' natalizio, che guarda un po' ai più piccoli, che vogliamo educare ad un linguaggio anche un po' meno mainstream se vogliamo, e questo è molto importante, ma che parla anche agli adulti. È una cosa che, ecco, io vorrei citare Gian Alberto Bendazzi, che nei suoi due volumi importantissimi, Animazione e una storia globale, tra l'altro Bendazzi è scomparso proprio di recente e ci lascia questo patrimonio immenso, e lui inizia con una cosa molto interessante, cioè ci fa capire come il linguaggio dell'animazione sia quasi insito nella visione umana, e ci fa analizzare il fregio del Partenone, che mette insieme arte, quindi linee, con il movimento, e lo legge addirittura come fosse, insieme a tanti altri reperti archeologici, una sorta di animazione antilitteram, quindi qualcosa che veramente parla a tutti e che anche nel linguaggio 2D, che è quello che noi spesso proponiamo, risulta ancora estremamente potente, estremamente evocativa e assolutamente contemporanea. In chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web? Tutte le informazioni sono sul nostro sito www.cinecittastimostra.it. L'inizio il 27 dicembre con il flauto magico, basta prenotare e noi vi aspettiamo tutti. Quarta edizione di Animazioni d'autore, speciale Emanuele Luzzatti nel centenario della nascita a Roma, Cinecittà si mostra dal 27 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Barbara Goretti. A presto! Grazie, ciao Federico! Con il musicista Marco Del Bene, nome d'arte Corben MKDB, per presentare il suo nuovo album Vita, colonna sonora dell'omonimo documentario di Matteo Raffaelli. Ben trovato! Ben trovato a te e a tutti voi. Raccontiamo questo progetto? Molto volentieri. Vita ha una soundtrack, una colonna sonora di un bellissimo lavoro di questo regista Matteo Raffaelli, e poi negli anni siamo diventati anche amici stretti. Questo lavoro è stato scritto con Giorgia Colli e si concentra sulle genti della Bergamasca e racconta attraverso una serie di interviste la storia di un gruppo di persone anziane con delle storie molto molto umane, molto molto toccanti, molto belle. Alcune di queste persone poi sono scomparse, non per vicende legate al Covid, ma proprio per la fine della vita. E io ho fatto la colonna sonora di questo progetto per la D-Color, distribuito da Istituto Luce Cinecittà. Com'è stato il lavoro insieme? Amo molto l'audiovisivo, innanzitutto perché rispetto ad altri generi io ho scritto canzoni, ma l'audiovisivo ti dà tantissima libertà, soprattutto in quei progetti come i documentari, come il cinema indipendente. Poi quando ti sposti su budget più importanti, anche le limitazioni. Matteo, il regista, è una persona meravigliosa. Cioè, insomma, lui è un filosofo, ha studiato filosofia all'università, quindi ha tutto l'approccio alla vita, dell'analisi, quindi ci fanno delle grandissime chiacchierate. Anche in questo caso abbiamo fatto un setup della storia. Io non ho visto molto all'inizio, ho iniziato a scrivere in base ai nostri incontri, qualche ora passata insieme a parlare dei massimi sistemi, e questa cosa ha prodotto i primi temi molto minimali, e questi microtemi sono stati poi utilizzati nel racconto delle diverse persone, dei temi che poi ho arrangiato cercando di limitare un po' il sound che amo, che è molto industrial rock, ma usando più un approccio minimale orchestrale basato su orchestra, pianoforte ed elettronica. Facendo un passo indietro, qual è il tuo percorso musicale? Ho iniziato come autore per il teatro a 13 anni, giovanissimo, ed ero proiettato la mia vita musicale, nella composizione, ho scritto commedie musicali, molte cose sotto i 20 anni. Poi ho iniziato a avere un grosso contratto discografico che non è andato in porto, cioè mi ha bloccato artisticamente. Quindi dopo aver scritto, essere stato negli Stati Uniti al Musician Institute, aver fatto tantissime cose, ho ricevuto un grosso stop, proprio legale, perché avevo un blocco, non ero libero come artista. Sai, quando hai 20 anni ti vedi come artista pop, rock, insomma sei là, non pensavo all'audiovisivo, non pensavo a queste cose qua. E mi sono allontanato dalla musica perché la cosa mi aveva svuotato. Passato diversi anni lontano, poi ho iniziato a riavvicinarmi con un compositore che è un grande mio amico, che è Roberto Procaccini, e appunto mi ha coinvolto. Lui ha una buona vena da songwriter in progetti per Marco Mengoni, poi abbiamo lavorato appunto con Fatti Bravo, abbiamo lavorato su dei progetti di Tala, su tante cose insieme. E lì mi sono iniziato a riavvicinare al mondo della musica, producendo. Poco prima del Covid mi sono innamorato totalmente di una cantante meravigliosa che è Sheryl Dos Santos, che è una ragazza che è venuta fuori da X Factor 2018, una ragazza nera di San Basilio, con un carattere fantastico, una vitalità, una forza fantastica. Siamo stati massacrati proprio in startup dal Covid. Proprio Sheryl l'ho usata nella traccia finale di un film americano che ho scritto, che adesso è in sala negli Stati Uniti e in Inghilterra, e ha 5 premi Oscar nel cast, Not to Forget, colonna sonora che verrà pubblicata nei prossimi mesi. E da 5 anni poi mi sono riavvicinato totalmente al mondo della musica con questa chiave che è dell'audiovisivo. Ho iniziato a lavorare da subito su progetti. Io sono un ambientalista, la vita mi ha voluto avvicinare da subito a un progetto sulla pesca intensiva in Africa. Raccontava attraverso una storia quanto poi l'Europa, l'Occidente stia depredando quei territori. Noi ci troviamo invasi qua dai migranti perché fondamentalmente li abbiamo mangiato un po' tutto, dalla terra al mare, no? Queste mega navi che pescano di tutto, questi senegalesi con le loro barchette possono ben poco. E da questo progetto che si chiama Maraye, insomma, è subito partita un'esperienza nell'audiovisivo che mi ha trascinato. Poi io adoro il cinema, scrivo, vado in festa, è una grande passione. Evidentemente ho sviluppato anche una certa attenzione alla lettura drammaturgica della storia, e questa cosa mi viene particolarmente bene. Ho fatto diversi documentari, sempre distribuiti. Il soggetto principale in Italia, uno dei soggetti, Istituto Luce, però History Channel, la storia, tutte cose molto fighe, con grandi sequenze di immagini, pochissimi dialoghi, tanto così, cioè, l'ambiente ideale per un musicista, no? Come nel film americano, che non è tanto parlato, ma ci sono tantissime sequenze in questi Stati Uniti meravigliosi, e quindi dà modo di esprimerti, no? Non ti devi inserire tra una battuta e un'altra di un attore. Questa è un'esperienza bellissima, perché entri nella tua bolla blu musicale da compositore e inizi a sviluppare il tuo viaggio. A volte protagonista, a volte la musica diventa il quinto personaggio, a volte sei lì di sottofondo che accompagna un'emozione. Questo lavoro stupendo che è compositore per audiovisivo è un lavoro in cui non c'è il miglior musicista, c'è la tua sensibilità e quanto tu sia stato capace di intercettare la direzione della regia, che è il capitano della barca. se tu riesci a capire, entri in sintonia col regista, allora hai vinto, no? E lui magari è una persona intelligente, come io ho avuto l'occasione di incontrare Matteo Capece per gli horror, Zanoli e altri, e sono riuscito a stabilire dei rapporti veri che mi hanno permesso anche di difendere anche il mio sound. Sono pessimo nel fare le marchette, no? Il sound è quello che viene chiamato il sound alive. Fammi una canzone tipo ecco live. Non sono un musicista adatto, un compositore adatto, c'ho il mio stile, tant'è che tendo a pubblicare tutte le cose, sempre di più, perché ci tengo proprio ad avere uno spunto artistico. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più su quest'album e anche più in generale sulla tua attività? Per un musicista e un compositore parlare della propria attività è spesso un lusso, no? Soprattutto se non fai musica pop. E quindi ho delle relazioni dirette proprio di messaggi di colleghi, amici, sconosciuti sul mio canale Instagram, che è il canale social che uso principalmente, che è Marco Del Bene. Il mio sito è marcodelbene.com. Qui pubblico le cose, poi metto delle cose su SoundCloud. Sono sempre molto attento alle collaborazioni, musicisti giovani, vecchi, sconosciuti, conosciutissimi. Ho conosciuto tantissimi talenti. Insomma, secondo me, ecco, la cosa da fare nella vita, proprio per tornare al tema principale, è relazioni umane, che poi è quello che ci rimane quando ce ne andiamo. La musica mi aiuta in questo. L'uscita dell'album Vita, colonna sonora dell'omonimo film di Matteo Raffaelli. Un saluto e un ringraziamento al musicista e compositore Marco Del Bene, aka Corben MKDB. A presto! Grazie a tutti, buon ascolto, grazie a te di questo spazio e della vostra attenzione. Con Joana De Freitas Ginori, direttrice artistica del Pianeta Racconta, Isola Mondo, edizione speciale, a Roma, allo Spazio Scena, dal 10 al 23 dicembre 2021. Ben trovata! Ciao, buongiorno, ciao Federico, grazie mille, grazie per l'invito. Ci racconti di questo progetto? L'Isola del Cinema di solito si svolge sull'Isola Tiberina in estate, però essendoci dovuti reinventare durante il periodo della pandemia abbiamo anche avuto il piacere di riscoprire nuovi luoghi, no? Dove portare il nostro know-how cinematografico, e siamo approdati al Ex Film Studio, che è questo spazio nuovo della regione con un nuovo ciclo di rassegna firmata da noi. Quindi il titolo è Il Pianeta Racconta e saranno 7 giorni di proiezioni intervallate gratuite, che hanno al centro sia la nuova cinematografia italiana più recente, che insomma, è sempre stato a cuore a noi, sia dei film incentrati più sulla biodiversità, sulla natura, sul paesaggio e sul viaggio. Com'è stata la scelta dei titoli? Ho avuto come linea guida questo desiderio di riparlare dell'ambiente, che è una cosa che noi facciamo sempre. Sempre c'è una sezione dedicata al cinema green e alla cultura di riferimento. Però questa volta il focus è meno incentrato sui disastri ambientali o sulle soluzioni di sostenibilità e più proprio sulla biodiversità, proprio perché siamo anche vicino all'orto botanico, no? Che ci ha ispirato un po' questo luogo che raccoglie centinaia di migliaia di specie di piante, e la stessa cosa abbiamo cercato un po' di portare nella scelta cinematografica. Tra l'altro c'è anche un film che si chiama Homo Botanicus, che è un viaggio nelle specie, in questo caso dell'Amazzonia, quindi è un connubio tra natura e filosofia, che è un po' il leitmotiv di tutta l'edizione, ma troverai titoli diversissimi. Ad esempio iniziamo con il film di Sabina Guzzanti, con Sabina Guzzanti in sala, su un tema completamente diverso, che è quello dell'emergenza abitativa, no? Quindi ecco, è molto ampio il programma, sono più di 20 titoli. Come si struttureranno queste 2 settimane? Non sono tutti i giorni, quindi parte il primo weekend con un focus sul cinema italiano e una sezione che si chiama Girl Power, che offre sia proiezioni, come dicevo iniziamo con Spin Time di Sabina Guzzanti, a seguire il film L'Arminuta di Giuseppe Bonito, che anche sarà presente in sala, ma a partire da sabato ci sarà anche una presentazione letteraria di un libro che si chiama Il Consolo di Orsola Severini per la sezione Girl Power, seguita da un film 24 Weeks in concorso al Festival di Berlino, nel 2016 su un tema quasi un tabù come quello dell'aborto terapeutico. Poi il weekend continua sul cinema italiano con il film di Jonas Carpignano a Chiara e Ritual, una storia psicomagica, invece è un film del 2014 italiano dove si omaggia Alejandro Jodorowsky. E per concludere ci sarà anche Aria Ferma, il bellissimo, direi, capolavoro di Leonardo Di Costanzo. Quindi sono tutti film recenti e italiani questo primo weekend, alcuni meno recenti come anche Maledetta Primavera di Elisa Moruso, che inaugurano la sezione. Dopodiché la seconda parte del festival saranno film più incentrati sul tema, come dicevo, della biodiversità. Come ci hai in parte anticipato, saranno presenti come ospiti autori ed autrici. Esatto, alcune proiezioni avremo il piacere di ospitare gli autori e gli attrici, te ne dico alcuni, a parte Sabina e Giuseppe Bonito, ci sarà anche il sabato per Ritual, la regista Giulia Brassale e Luca Immesi e l'attrice Desiree Giorgetti, ci saranno in occasione del film Aria Ferma di Leonardo Di Costanzo due degli attori dello straordinario cast e anche in seguito avremo altri ospiti, quindi bisognerebbe accompagnare i social che in questo sono molto utili anche per essere aggiornati in tempo reale delle adesioni che a volte cambiano, no? Ci dai tutti i riferimenti web? Potete trovare la programmazione su www.isoladelcinema.com, che è il nostro sito, su Facebook la pagina Isola del Cinema, stessa cosa su Instagram, quindi molto semplice. Sul sito c'è anche la possibilità di iscriversi alla newsletter. Ripeto che sono gratuite, questa è una cosa nuova per noi, perché solitamente in estate c'è sempre un biglietto, in questo caso abbiamo voluto offrire proprio a tutti. Fino ad esaurimento posti, la sala non è molto grande, quindi consiglio di prenotare. Il Pianeta Racconta, edizione speciale dell'Isola del Cinema a Roma, lo spazio scena dal 10 al 23 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Joana De Freitas Ginori. A presto! A presto, grazie a tutti. Ciao Federico. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.